E buonasera a tutti, come state? Questa è Cura Radio, sono da poco passate le 19, noi siamo in diretta su Facebook e con me, io sono Mattia, con me, compagna di questa avventura, c'è Francesca in diretta Skype da Caldonazzo. Ciao Francesca! Ciao Mattia, come stai? Ma io, dai, sto bene, devo dire, sono un po', non lo so, questa fase 2 mi mette un po' di malinconia, non so perché, forse non ero più abituato ad uscire, a sentire il rumore delle macchine, insomma, non lo so, devo uscire piano piano, poco a poco, un passo alla volta, devo riabituarmi. Tu invece? Ma Radio Cura sa anche questo, no? Anche Radio Cura ha buttato fuori il nasino. Nel mondo che si muove, visto che noi siamo nati durante il lockdown, durante la quarantena, adesso la nostra piccola radio. Ecco, sei stata interrotta dal suono di Skype perché ci ha raggiunti. Mi senti, Francesca? Francesca, mi senti? Francesca? Io ti sento benissimo. Ah, no, cioè, no, cioè, allora succede questa cosa strana. Io devo dirlo agli ascoltatori: mi spiace che tu sia stata interrotta, ma c'è qualcuno che sta cercando di chiamarci. E ogni volta che qualcuno prova a chiamarci con Skype, tutte le altre conversazioni vengono mutate. Allora, vediamo se adesso ce l'abbiamo fatta. Ci stava Ciao. chiamando Ettore Paris di questo Trentino. Ciao, Ettore. Ciao, ciao Mattia. Chi Ecco, noi siamo in diretta. Adesso sono gli altri? te lo raccontiamo. C'era Francesca che stava parlando. Sì. Vai, Francesca. Allora, ciao Ettore, benvenuto fra noi. Sì, stavamo un po' introducendo l'argomento di questa puntata, che è la prima puntata di Radio Cura post-lockdown, post-quarantena. Quindi stavamo dicendo che la nostra radio sta muovendo i passi in questo mondo che si sta ricominciando a mettere in carreggiata, e stavamo dicendo che speriamo che Radio Cura ci accompagni e ci aiuti nella sua dimensione, appunto, eutica, ad affrontare questa fase, che comunque è una fase particolare. Te ti senti un po' disorientato, Mattia, ma non sei per niente solo, siamo tutti un po' così sfasati nella fase, appunto. Ma di Sì. cosa parliamo oggi, Mattia? Allora, il tema che abbiamo scelto questa sera è un tema piuttosto, come dire, intrigante e anche importante, visto il periodo che abbiamo appena passato e così le sfide che ci attendono per il futuro, cioè il tema dell'informazione. Questa sera cercheremo un po' di capire, di trarre un primo bilancio con i nostri ospiti di come ha funzionato l'informazione. Avremo un occhio sul locale, ovviamente, sul Trentino, con i nostri ospiti, ma anche uno sguardo più globale e nazionale. Cercheremo di capire come i media hanno affrontato l'emergenza pandemia in Italia, Francesca. Sì, poi tutto sommato siamo anche sincronizzati con quella che è stata la giornata internazionale della libertà di stampa, che è stato il 3 maggio scorso, che ci ricordava, un 3 maggio appunto di tanti anni fa, che ci ricorda l'importanza della libertà di espressione, l'importanza di cercare di ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza frontiere. Sto leggendo appunto quello che è proprio la dicitura di questa giornata così importante, quindi ci sembra doppiamente importante fare una riflessione collettiva, e a partire, come dicevi te, anche da quello che è successo sul nostro territorio, nell'ambito poi di un periodo in cui siamo stati attraversati continuamente da sciami di informazioni che dicevano spesso tutto il contrario di tutto. Sì, tra l'altro parleremo di informazione questa sera, come ho detto, così un piccolo bilancio per capire, no, cosa secondo noi è stato fatto bene, cosa meno, quali sono i problemi da affrontare, come l'abbiamo vissuta anche, no, quella che è stata chiamata da alcuni infodemia. Ma è anche, direi, a questo punto un momento di bilancio anche per noi, per Cura Radio, che ha iniziato a trasmettere qui da casa mia, insieme a te, Francesca, qualche settimana fa, e che si trova come altri media di informazioni ad affrontare una nuova fase, un bilancio per noi che abbiamo deciso così di iniziare il nostro percorso così per sentire come stava la nostra comunità, per tastare il polso, no? A tutte le reti di solidarietà che in questo periodo sono state costrette a inventarsi nuovi modi per esprimersi e forse la nostra radio, la nostra cura radio è stata un po', anche questo. Anche noi dovremo mutare in questa fase 2. Stiamo discutendo di, quello che vogliamo fare, per il futuro, ne stiamo discutendo insieme e vedremo. Certamente l'esperienza di cura radio continuerà, si tratterà di capire in quali modi, Francesca. Sì, no, ma infatti dai, diciamolo Mattia, è una cosa che è nata come tante altre esperienze di questo periodo, come dicevi te, in una dimensione di solidarietà, ma anche insomma in effetti ha avuto a che fare anche con l'informazione, no? Con il ragionamento attorno a un'informazione libera, indipendente, autonoma. Però diciamocelo, insomma, poi ci è piaciuta questa cosa, è nata, come si dice, quasi per gioco o comunque per questa funzione sociale che ci è sembrato giusto mettere in campo, però insomma direi che è un'esperienza che ci sta dando moltissimo, quindi come dici te, troveremo la maniera più consona per continuare anche coerentemente con quelle che sono stati le nostre aspettative, i nostri valori e soprattutto anche molto arricchiti dai compagni di viaggio e dalle compagne di viaggio di queste settimane, no? Perché anche loro ci hanno aiutato, anzi, soprattutto loro, a capire qual era la direzione giusta. Sì, tra l'altro io credo che se c'è una cosa che emerge da quanto abbiamo fatto in queste settimane è stato il piacere per noi naturalmente di fare questa esperienza, di ritrovarci e poi forse la necessità di un emittente, di una radio di comunità, no? Che potesse parlare appunto del territorio, di quello che succede qui, però dandogli ovviamente anche un punto di vista, una chiave di lettura globale che secondo me resta molto importante anche per capire che cosa succede nel nostro piccolo Trentino. Per parlare della nostra comunità e di questa comunità, Francesca, fanno parte anche gli animali, gli orsi in Sì, particolare. io ti impongo sempre degli audio abbastanza complicati, Degli chiedo orsi venia, sempre. però sì, dai, mi faceva piacere far partire in maniera anche un po' divertente questa puntata, quindi ti chiedo di lanciare il primo audio. Vai. Oh, venite a vedere, venite a vedere! Sì, effettivamente Francesca, questo è in realtà un video, vi stiamo facendo ascoltare naturalmente soltanto l'audio, è veramente molto, molto divertente. Vuoi descriverlo magari, spiegare di che cosa Ma si tratta? diciamo che con questo video ho preso un po' due piccioni con una fava o due orsi, un po' perché questo qua è un video che è quasi virale, si può dire che è circolato su tante piattaforme, insomma è arrivato un po' a tutti e è l'orso di Cagliano che poverino tenta di entrare in un appartamento da un poggiolo, poi appunto si cala spaventato dalle urla e scappa via. Ma perché? Ti ho fatto insomma, ascoltare questo video, lanciare questo video, perché da una parte il nostro pensiero va a M49, di cui abbiamo parlato nel giorno della sua cattura, Corretto. con molta tristezza, insomma, perché siamo, almeno io sono dalla parte per gli animali liberi, però dall'altra parte questo video è stato tratto dal sito della Voce del Trentino, che è un giornale locale che cito per iniziare la nostra riflessione nel mondo dell'informazione come elemento negativo. Perché? Perché la Voce del Trentino è stata inserita nella blacklist dei siti che hanno pubblicato bufale sul coronavirus, niente po' di meno che da parte di NewsGuard, cioè una piattaforma internazionale che si occupa di contrastare il diffondersi delle fake news gestito da nomi estremamente importanti, addirittura dal fondatore del Wall Street Journal, per esempio, e questo ha fatto rizzare le antenne a tanti, tant'è che c'è stata anche un'interrogazione parlamentare da parte di Paolo Ghezzi, che sottolineava il fatto come la Voce del Trentino, per esempio, fosse uno di quei giornali che anche a livello locale si prende un bel po' di soldini di appunto di finanziamenti pubblici. E il diciamo focus che però ci interessa in questo momento è proprio la questione delle fake news, perché sappiamo che in questo periodo di pandemia, di agitazione, di crisi, ne sono girate tantissime, quindi ci siamo proprio interrogati sull'importanza dell'informazione, nonché della scienza in questo momento qua. Eh sì, le fake news sono sicuramente uno dei temi di riflessione, anche perché spesso le fake news che sembrano venute da chissà dove in realtà poi vengono riprese e veicolate dai media mainstream, no? E questo è un altro grosso problema. E le fake news si producono anche da noi, alle nostre latitudini, una cosa della quale ovviamente non andare troppo fieri. A questo punto, Francesca, io introdurrei i nostri ospiti di questa sera, che sono, c'è con noi Simone Casalini, che è caporedattore del Corriere del Trentino. Lo abbiamo buonasera a tutti. Ciao Simone, benvenuto. Ciao, ciao Mattia, ciao Francesca. E abbiamo con noi Daniele Erler, il direttore di ilmulo.it, che è un giornale online, tra l'altro nato da pochissimo, che si occupa in particolare di la vis della Rotagliana, dunque fa informazione locale di comunità. Ciao Daniele. Ciao, buonasera. Buonasera a te. E poi abbiamo Ettore Paris, direttore di Questo Trentino, rivista storica di inchiesta sul territorio. Ciao Ettore. Ciao e buonasera a tutti. Buonasera a te. Vai Francesca, ci sono anche altri ospiti. E poi sì, oggi abbiamo persone che ci hanno tantissimi amiche e amici. Avremo con noi Laura Pasotti, che insieme a Benedetta Ledda, radiofonica un pochino simile a quella alla nostra, anche se loro sono decisamente più professionali. Poi abbiamo Riccardo Troisi, che è referente di Comune Info, una piattaforma di giornalismo collettivo estremamente interessante. E poi abbiamo invece un giornalista insomma, veramente noto e famoso, che è Checchino Antonini, che abbiamo per cui abbiamo insomma di averti con noi. Ciao a tutti. Ciao, benvenuti a tutti e a tutte, grazie di averci invitato. Ecco, allora, se sei d'accordo, io inizierei così a fare alcune domande, in particolare per quanto riguarda, così, partendo dal locale per poi arrivare al globale. E partirei da te, Ettore. Io ho visto sulla homepage di Questo Trentino che voi avete dedicato due storie di copertina su due numeri di Questo Trentino. Questo Trentino è un mensile, si trova in edicola, andate a comprarlo, se ci state ascoltando ne vale la pena, ve lo assicuro. Dunque due numeri, due copertine dedicate al virus, con particolare attenzione ovviamente al Trentino. Come avete deciso, Ettore, di affrontare il tema virus? Immagino ne abbiate discusso in redazione. Quali sono le indicazioni, le direzioni che avete deciso di prendere? Allora, sono due. Prima è i risultati del Trentino, che sono disastrosi, e le responsabilità di questo. Il secondo aspetto, che è quello diciamo nazionale, come il nostro sistema sanitario ha impattato con il contagio in maniera anch'essa disastrosa, perché noi siamo, se noi facciamo il numero dei morti per popolazione, la nazione che ha più morti, più contagiati. E questo deve avere una motivazione, e ce le ha molte profonde, perché a parte quella che è stata l'indubbio, adesso l'eroismo e così via, è tutto vero, è tutto vero. Noi abbiamo avuto che il personale sanitario si è assolutamente sacrificato quando si dice come era come una guerra, sono stati andati sul fronte a mani nude, è effettivamente vero. Ma a parte questo, che è facile riconoscerlo, anche se è doveroso, ci sono quelli che sono i difetti fondamentali. I difetti fondamentali, qua sarò brevissimo, è che noi abbiamo una sanità che è concentrata sul privato, e c'è stato via via uno spostamento verso il privato, verso l'ospedale invece che verso il territorio, verso la cura, quando va bene, mi piace il vostro titolo, però il problema della sanità è che non c'è prevenzione. Ora noi cosa abbiamo avuto? Che invece che prevenire, faccio un esempio, scusate, ma credo che sia assolutamente illuminante. Abbiamo presente Taiwan, la Cina democratica, è Cina, anche se è un'isola al largo della costa cinese, 28 milioni di abitanti, è interconnessa con la Cina popolare. Bene, loro su 28 milioni di abitanti hanno avuto 6 morti e non hanno avuto un giorno di lockdown. Cosa hanno fatto? Ha fatto una politica sanitaria di prevenzione con una serie di test, di tamponi diffusissimi, e chi era positivo veniva messo in quarantena, ma non in quarantena come da noi, cioè si chiude a casa, contagia i familiari poi contagiano, vanno a fare la spesa, contagiano gli altri, ma bensì c'erano dei locali attrezzati in cui uno stava lì 15 giorni rinchiuso, si passava a leggere, a guardarsi i film, alla fine dei 15 giorni poteva uscire e ricominciava la vita lui come tutto il resto della nazione. Ora noi di questo non solo non c'è stato niente all'inizio, Mattia, ma non c'è niente neanche adesso, né a livello nazionale, la fase 2. Si è pensato di fare tamponi, ma non i miserabili 700 di cui si gloria la nostra azienda sanitaria, quando il Cibio ci dice che ne potrebbe fare lui 2000. Ma non queste cose, ma dovrebbero essere migliaia e migliaia. Certo. E tra l'altro i positivi dovrebbero essere messi in quarantena effettivamente. Certo, Ettore, tra l'altro te appunto come giornalista con il vostro giornale, con il tuo giornale, già un mese fa avevi posto tutta una serie di domande molto precise a Maurizio Fugatti, al quale a quanto pare non hai ancora ricevuto risposta. Ha risposto Bordone 2 giorni fa, quindi sul diciamo prossimo chi sono, per chi magari non li conosce, che ci sta ascoltando, gli amici che non conoscono il Trentino. Fugatti, ovviamente presidente della provincia, leghista. Mentre Bordone è il dirigente e il direttore dell'azienda sanitaria. Ah, benissimo, quindi il prossimo numero di questo Trentino riceveremo delle informazioni un po' più precise. Questa è anche una bella notizia. Io direi che però comunque anche in questo numero noi abbiamo fatto un'indagine sui numeri, in parte su quelli dell'Istat, e in parte su quelli dati dalla provincia, e risulta appunto che noi abbiamo avuto un numero di morti in tutta una serie di paesi del Trentino che sono il triplo di quelli degli anni scorsi, no? Come è successo nella Bergamasca, e in Lombardia, in alcune zone. È interessantissimo e dolente vedere quali sono le località in cui c'è stato questo picco di mortalità. E si possono dividere in due aree. Una, i comuni dove è stato sciaguratamente aperti gli impianti di risalita il giorno e il weekend 8-9 marzo. Erano chiusi nel Veneto gli impianti, erano chiusi in Lombardia, e c'era stata anche una pubblicità sciagurata: venite a sciare in Trentino che noi abbiamo e gli impianti aperti. Tra l'altro, Ettore, questa cosa che stai dicendo ricorda molto, no? Hai parlato anche di Bergamo, ricorda un po' il messaggio degli imprenditori bergamaschi, Bergamo non si ferma, no? Quel terribile messaggio che poi è stato seguito da, come dire, un periodo di altissimi contagi, no? Nella Certo, bergamasca, questo è proprio stato, perché... sono Ma, degli errori e in molto, più... molto gravi, Sono degli errori infatti. molto gravi e in più c'è tutta la questione delle cifre, no? Ormai tantissimi esperti ci dicono che le cifre date quotidianamente dalla Protezione Civile non hanno più nessun senso perché non indicano più niente. Invece, come dicevi tu, le cifre dei comuni, della mortalità nei comuni rispetto agli anni precedenti, questo sì è un dato molto interessante. No, Io non ci si vorrei... scappa, non ci si Non ci si scappa. scappa da quei Se dati lì, negli anni certo. scorsi morivano 100 persone, sono morti in marzo e aprile, e quest'anno sono morte 300, quei 200 sono dovuti Certo. al coronavirus. Perché Ecco. anche perché l'Istat ha fatto un'indagine molto, molto interessante, anche abbiamo fatto con l'aiuto di ricercatori, abbiamo fatto anche dei grafici in proposito e sono molto esemplificativi. La seconda grossa falla nel sistema trentino, colpa specifica, è stata quella di aprire le case di riposo. A un certo momento c'è stata una sciagurata manifestazione di parenti di degenti, parenti spinti dall'amore per i genitori e così via, e vanno in Piazza Dante a protestare perché non potevano andare a trovare i loro cari. E il governatore Fugatti cosa ha fatto? Ha detto: apriamo le case di riposo, basta solo a un parente. Ma figuriamoci, una casa di riposo che ha 100-200 ricoverati, aprire solo a un parente vuol dire che un centinaio entreranno dentro, qualcuno di loro sarà asintomatico e è successo il disastro. Ecco, È Ettore. vero che si sono. Lì c'è stato chi ha operato molto bene. L'Associazione delle Case di Riposo ha contestato questa posizione del presidente della provincia, però di Ecco. mezzo qualche casa di riposo ha aperto e lì sono i luoghi dove poi abbiamo avuto un incremento della mortalità. Perché Magari chiederei, Ettore, se sei sì. d'accordo, anche a Simone Casalini, che abbiamo ricordato essere caporedattore del Corriere del Trentino, quindi insomma l'inserto trentino di uno dei principali quotidiani nazionali. E voi com'è che avete affrontato questo momento? E Simone, te lo chiederei anche proprio da un punto di vista pratico, anche un po' per far capire a chi ci ascolta, i giornalisti, le giornaliste, come sono riusciti a muovere. Voi non potevate. Avevate una possibilità di movimento, come tutti, estremamente limitata. Come avete fatto a coprire e quali sono state le difficoltà, di queste settimane? Ma le difficoltà sono legate intanto anche all'organizzazione, perché ovviamente dagli inizi di marzo abbiamo dovuto mettere le redazioni in smart working, e quindi attualmente a Trento siamo soltanto in due che andiamo in redazione, a Bolzano non c'è nessuno. E a Bolzano abbiamo anche dovuto affrontare un problema ulteriore, perché un nostro collega è risultato positivo al coronavirus e quindi ha avuto tutto un iter, fortunatamente casalingo comunque di malattia, che ha costretto poi a quarantenare tutta la redazione. Quindi ci siamo in realtà organizzati anche a Bolzano per riuscire sempre ad essere presenti in edicole, nelle edizioni digitali, ovviamente lavorando da casa, coordinando molto il lavoro anche da Trento e cercando di muoverci quando era assolutamente necessario. Ovviamente per ragioni di lavoro la possibilità di andare in giro ai giornalisti era comunque garantita, e quindi noi abbiamo cercato sempre di mantenere, anche tutelando la sicurezza dei colleghi che si spostavano sul campo, ma di mantenere sempre molti servizi che fossero collegati anche con quello che stava vivendo in questo momento la società, perché ovviamente, come dire, in questo periodo di emergenza che ha rappresentato, come dire, un unicum, quantomeno negli ultimi 60 anni, ci sono stati una serie di problemi che si sono accavallati, tra cui quello anche di garantire, come dire, un accesso alle informazioni in modo trasparente a tutti gli utenti, a tutti gli lettori, a tutti i cittadini, in una fase in cui sostanzialmente, l'abbiamo visto a livello nazionale, lo viviamo a livello locale, c'è una forma di monocomunicazione istituzionale, che è quella o del Presidente del Consiglio o del Governatore di turno. Questo ha posto, come dire, anche un problema molto ampio e molto articolato di come mantenere le reti e le trame delle democrazie attive in un periodo in cui c'è stato e c'è ancora un fortissimo gap di rappresentanza e di pluralismo all'interno sia dei territori regionali e sia naturalmente del sistema paese. E queste sono, dunque, questa è un po', insomma, la modalità con cui abbiamo inteso naturalmente organizzarci, anche per tutelare la salute dei colleghi, però senza lasciare il campo, insomma, no? Perché, come dicevo precedentemente, poi in una situazione di emergenza anche democratica come questa, lasciare il campo significa anche non riuscire più a presidiare le notizie, non riuscire più a presidiare i processi che comunque avanzano anche nel vuoto di contropoteri e di bilanciamenti, no, che normalmente caratterizzano un processo democratico. Dunque, Simone, certamente è importante che la stampa continui ad esserci anche con le necessarie limitazioni, no, dovute alla necessità di preservare la salute dei giornalisti e delle giornaliste. Dall'altra parte è anche vero che quello a cui abbiamo assistito in queste settimane è stata quella che ormai si chiama comunemente un'infodemia, no? Con i grandi quotidiani nazionali in rincorsa per cercare le notizie sul virus, per spararla più grossa degli altri a volte, per rincorrere, come dire, un rapporto emozionale con la notizia. Voi qui come avete strutturato il vostro lavoro attorno alla narrazione del virus? Forse, non lo so, la butto lì, ma rispetto agli altri quotidiani locali avete anche un numero di pagine minore, forse questo vi ha anche aiutato in parte a mantenere una certa, come dire, a moderare, no? A non andare incontro a quella infodemia di notizie sul virus che invece abbiamo assistito anche su altri quotidiani locali qui in Trentino. No, certo, questo è stato, è come dire, un po' anche la nostra caratteristica identitaria ormai da alcuni anni, avendo meno pagine rispetto agli altri due quotidiani locali, non dovendo coprire le valli. Ovviamente è un quotidiano che si può dedicare molto di più all'approfondimento, non solo in termini di inchieste, ricordava prima Ettore Paris, appunto, i temi come RSA o la moltiplicazione dei morti dei comuni, che sono inchieste che abbiamo fatto anche noi sul nostro giornale, ma anche in termini di approfondimenti anche in un certo senso filosofici, no? Del momento in cui stavamo affrontando, per cercare di dare, come dire, anche una strumentazione più ampia, più articolata, forse in alcuni casi anche un po' alta, no? Anche rischiando di andare incontro ad un tipo di informazione più complicata e più complessa, che potesse avere magari anche una minore ricezione, no? in una parte, diciamo, di opinione pubblica più larga. E quindi abbiamo cercato, come dire, di tenere sempre in equilibrio alcune di queste componenti, che sono per l'appunto l'approfondimento, che si è sviluppato attraverso inchieste, attraverso interviste magari anche a intellettuali di un certo calibro. Abbiamo cercato di mantenere molto forte in tensione anche il filo tra la comunicazione istituzionale e anche quelle che sono le voci di opposizione all'interno della società, per come dire, creare comunque un dibattito e rimandare, costruire un dibattito pubblico che avesse comunque e mantenesse questo pluralismo di voci, e poi abbiamo cercato di, come dicevo prima, di rappresentare soprattutto i settori più deboli della società, che sono stati anche quelli più colpiti e meno narrati anche a livello nazionale, no? Perché ci sono i grandi problemi, ci sono, come dire, la gestione del problema nelle famiglie medie che sono quelle che lo riescono a sopportare, ma ci si è occupati molto poco dei soggetti più vulnerabili, a partire, indicherei una categoria, quella dei bambini, sì. Cui, che sono stati un po' i grandi assenti nelle misure che sono state adottate sia a livello nazionale che a livello locale. Poi abbiamo fatto molti approfondimenti anche in campo sanitario, ascoltando anche esperti naturalmente fuori dalla nostra provincia, per cercare di avere voci di rimbalzo che potessero non essere, come dire, all'interno del circuito sanitario trentino o politico trentino, e che quindi potessero offrire anche modelli e esperienze differenti per metterli a confronto. Sappiamo naturalmente che una parte, magari una parte non consistente, ma una parte di questa infodemia è stata anche come dire, alimentata dalla scienza, no? A cui la politica si è rivolta con un inchino anche per farsi indicare una direzione, e in un rapporto anche molto pericoloso, appunto perché non bilanciato, non perché la scienza non sia importante, anzi non sono assolutamente un antiscientista, però abbiamo visto quanto fossero contraddittorie, quanto le sono ancora, le informazioni che arrivano dal sapere medico su questa malattia. Simone, allora guarda, io ti interrompo un momento perché ho una curiosità che chiedo anche, insomma, estendo anche agli altri colleghi trentini, proprio su questo rapporto fra scienza e informazione. Per esempio, dice Wuming su Zapp, dice teatro politico, incentivi alla superstizione di massa, conclamato divorzio fra scienze e provvedimenti. Di cosa sta parlando Wuming 1? Parla della questione mascherina da mettere sempre. Lui si attacca chiaramente alla dimensione territoriale sua, quindi dell'Emilia Romagna, ha una dichiarazione di Davide Baruffi, presidente, sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia Romagna, che dice: abbiamo detto no all'attività motoria in generale, non perché rappresenti il primo fattore di contagio, ma perché volevamo dare il senso di regimi di restrizioni. E Wuming poi, nell'articolo che lui che loro hanno pubblicato, raccontano sostanzialmente che questa questione della mascherina non è assolutamente, non risponde ai dettami della scienza, ma sì risponde ai dettami di alcune necessità politiche. Allora, un giornalista, lo chiedo anche ad Ettero, chiaramente, come si pone di fronte a questioni come queste? Domanda scivolosa, lo so. Ma no, si deve porre, io credo, sempre in modo molto critico, cioè interrogarsi anche di fronte alla contraddittorietà delle informazioni sullo stesso tema che vengono fornite anche da più interlocutori diversi, medici, politici, eccetera, eccetera, e cercare, come dire, di essere un pungolo, di rappresentare anche una forma di contropotere anche attraverso i commenti, gli editoriali che sui giornali, su qualsiasi media naturalmente vengono pubblicati, perché attraverso, come dire, l'instaurazione di una dialettica molto forte, anche di una tensione, oserei dire, che si può raggiungere o quantomeno svelare una verità. Io credo che sia questo, insomma, il compito di un giornalista è quello di non arrendersi mai di fronte a una dichiarazione che viene fatta da chi che sia. Sappiamo poi, il sapere medico, voglio dire, non è come dire, non ha aspetti neutrali, no? Se lo guardiamo nella storia, il sapere medico, voglio dire, ha costruito anche il modello della malattia mentale, da cui ne sono discesi anche i manicomi. Quindi, voglio dire, ci sono dei sistemi di contrappesi e di anche interdizione reciproca che si possono mettere in campo per cercare, come dire, di capire qual è il punto esatto, o qual è la verità più vicina a cui noi possiamo naturalmente arrivare. Posto che io credo, e questo lo dico molto sinceramente, di questa pandemia vedo che ci hanno capito veramente poco, quasi tutti, sì. E quindi credo che questa confusione non nasca spesso da malafede, ma nasca davvero da una reale incapacità di cogliere fino in fondo l'essenza di quello che sta accadendo. Ma tra l'altro, io credo che il compito del giornalista, e come anche quello del politico, è, come si dice, quello del giudice. Di fronte alle varie perizie si dice che il giudice deve essere peritus peritorum, lui vede le varie perizie e in base a quella che è sceglie quella tra le perizie, diciamo l'orientamento che lui ritiene più corretto. Ecco, questo credo che facciamo anche noi giornalisti, insomma, di fronte, quando ci troviamo di fronte a ad opinioni scientifiche contrastanti, un po' adesso dobbiamo essere molto prudenti, dobbiamo presentare l'una e l'altra, però facciamo un'operazione di scelta in fin dei conti, ecco, dicendo questa sì. È una cosa che, mettendole tutte assieme, appare la più ragionevole, e quest'altra invece no, non so, sulle mascherine, insomma, credo che noi abbiamo assunto questa posizione. Le famose mascherine chirurgiche servono, non ti proteggono, però proteggono gli altri, quindi ecco. Se le portiamo tutti è un gran bel passo in avanti. Ettore, scusami, sì. Secondo me Simone ha sollevato una questione che in parte stavi riprendendo anche tu, cioè il fatto che ci siamo accorti, parlo anche per me, ma insomma i giornalisti si sono accorti che la scienza non è monolitica in questa fase, ma noi come lettori, come ascoltatori, ci siamo anche accorti che spesso i giornalisti non hanno la, diciamo, capacità di raccontare il fatto che appunto la scienza non è monolitica. Bisogna anche saper raccontare il fatto che all'interno del mondo scientifico ci sono contraddizioni, opinioni differenti che sono cambiate, hanno avuto anche un'evoluzione dall'inizio della diffusione del virus ad oggi. E c'è anche un altro problema, cioè il fatto che per esempio in Italia il giornalismo scientifico è andato scomparendo negli ultimi anni. E in più c'è il fatto che da una parte c'è una Babele di voci anche nel mondo scientifico, ce ne accorgiamo durante questa emergenza, ma dall'altra parte è anche lecito chiedersi: sarebbe giusto che ci fosse una informazione istituzionale unica e che tutti si adeguassero a questa? Forse no, insomma, anche questo è un tema che secondo me andrà affrontato nei prossimi mesi, anche per capire qual è il modo giusto. Ettore, scusami, io vorrei però introdurre nella discussione a questo punto, poi ci ritorniamo ovviamente, anche un altro ospite, Daniele Erler di ilmulo.it, che è una realtà nuova, è nato da pochissimo questo portale di informazione che si occupa in particolare di la vis e della rotagliana, e che di colpo si è trovato ad affrontare una, come dire, una emergenza, un'epidemia pandemica globale, e affrontarla dal punto di vista giornalistico di una realtà che si occupa del territorio, di un territorio abbastanza ristretto. Daniele, come avete affrontato voi? Hai sentito i colleghi? Come avete affrontato questo momento di emergenza? Sì, allora, intanto io ho seguito con molto interesse questa prima parte di discussione, anche perché io ci tengo a precisare che il mulo è una parte della mia vita professionale, fra virgolette, o meglio è una cosa che abbiamo creato a titolo di volontariato, quindi molto simile ad altri progetti che sono nati in questo periodo per fare informazione di qualità, ma allo stesso tempo io sono giornalista di professione e collaboro con vari giornali, fra cui anche il Trentino, che è un giornale locale. Quindi diciamo che il mulo è una parte importante della mia giornata, che però io faccio a titolo sostanzialmente di volontariato, e era nato proprio con questo scopo qui, cioè quello di riuscire a raccontare quello che succede in una realtà molto precisa, cioè un territorio limitato come la Vis, dove vivo attualmente, e la Rotagliana, quindi poi la Val di Cembra, insomma la zona intorno, e volevamo raccontare sia il passato, quindi riscoprendo un po' alcune cose storiche che si stavano perdendo, sia il presente, facendo una vera e propria informazione e puntando a un giornalismo anche di qualità. Ci siamo trovati, come dicevate, in una situazione molto particolare, in cui all'improvviso è arrivata questa epidemia, e il nostro giornale, che era, diciamo, molto di nicchia, ha iniziato ad aumentare anche nel numero di visualizzazioni, e quindi anche di persone che si sono interessate. Ci siamo accorti che c'era effettivamente l'interesse in un periodo molto particolare, probabilmente anche legato al fatto che le persone avevano più tempo e quindi anche più interesse nell'approfondire determinate questioni legate molto al territorio, e ci siamo accorti che c'è stato un interesse che è cresciuto notevolmente, e quindi quello che abbiamo fatto è cercare di creare una sorta di spirito di comunità. Cioè, ci siamo detti: in questo momento ci sono una serie di persone che si trovano isolate perché devono stare a casa loro, come c'era richiesto. Cerchiamo comunque di creare uno spirito di comunità legando le persone in maniera virtuale, e ci siamo inventati una serie di cose legate al nostro giornale che andassero quindi al di là del giornalismo, quello classico, che comunque abbiamo tentato di fare comunque. Grazie Daniele, quindi hai detto la parola giusta, cioè comunità. A proposito di comunità, direi di far intervenire un'altra compagna di viaggio che ci racconterà anche lei della esperienza che insieme alla sua amica Benedetta, parlo di Laura Pasotti, hanno messo in campo. Si parla di Antidoti, si parla di una radio web su Neoradio, che però ha le sue radici a Bologna. Quindi adesso lanciamo Laura Pasotti. Antidoti, un programma a cura di Laura Pasotti e Benedetta Ledda. Pronto, ciao Laura. Ciao Benedetta, buongiorno. Un buongiorno anche a tutti i nostri ascoltatori, chi ci ascolta dalla radio e chi ci ascolta dalla app, e benvenuti a questa nuova puntata di Antidoti. Una puntata in cui torniamo a una vecchia fiamma. Parliamo di giornalismo, come era successo nella prima puntata di questa trasmissione, perché in questo periodo in particolare siamo tutti a rischio di infodemia. Ci arrivano troppe informazioni, è difficile gestirle, e poi tanto ci chiediamo: ma saranno tutte vere, saranno tutte utili, e di chi possiamo fidarci? Oggi ne parliamo con un collettivo di giornaliste che ha deciso di aprire il sito di informazione Covid Italia News, puntando sul giornalismo investigativo per affrontare l'attualità. E ne parleremo in particolare con una di loro, Cecilia Ferrara. Un altro mezzo di informazione che, come sempre, non ci abbandona in questo periodo di isolamento forzato e anzi ci permette di colmare le distanze fisiche è la radio. Sul web stanno nascendo diverse esperienze di comunicazione e di condivisione attraverso la radio, e noi oggi abbiamo scelto di andare a Bolzano per conoscere Radio Quarantenna, nata da un gruppo di ragazze e ragazzi che hanno deciso di aprire questa emittente per farci compagnia e fare compagnia agli altri in questi tempi cupi, come hanno spiegato sulla loro pagina Facebook. Ecco qui, allora, Antidoti, Radio Quarantenna, la radio che racconta anche l'emergenza epidemiologica, l'emergenza virale. Ciao Laura. Ciao, ciao a tutti, ciao Mattia, ciao Francesca. Ciao Laura, io sento un bel eco. Anch'io, infatti. Ah, sentite l'eco. Cosa devo fare? Aspetta. Forse strano. Te niente, però le abili le capacità tecnologiche di Mattia risolveranno il problema. Come stai? Okay. Sto bene, grazie. Dove sei in questo momento? A Bologna? Sono a Bologna, sono a casa. Come diceva Mattia in apertura, non mi sono ancora abituata a questa fase 2, e quindi non sono ancora uscita. Sto prendendola con calma, diciamo. Visto che non ne ho necessità, sono a casa. Credo che sia una situazione di molti, infatti ci si cercava di tirare un po' sul morale a inizio trasmissione, appunto, diciamo, sì. Radio Cura come antidoti, chissà che esatto. non ci aiuti. Senti, dimmi. Con i nostri primi compagni della prima parte della trasmissione stavamo ragionando un po' appunto sul ruolo del giornalismo, su come sì. I giornali hanno affrontato questo periodo, le difficoltà che hanno avuto anche le redazioni per potersi muovere di persona, andare a cercare le notizie. Vogliamo che voi invece ci raccontate come siete riusciti a affrontare questo momento con la radio, che in qualche momento è più malleabile, entra nelle case, riesce a raccogliere le voci e magari ci dice anche due parole su come nasce Radio Antidoti. Sì, allora Antidoti è una trasmissione che abbiamo ideato io e Benedetta Aledda e in realtà abbiamo cominciato prima di questa situazione di emergenza. Abbiamo iniziato a trasmettere a fine gennaio su Noi Radio, che è un emittente web di Bologna. Ed è una trasmissione che noi siamo entrambe giornaliste, facciamo radio da 15 anni, abbiamo lavorato nelle emittenti locali di Bologna e questa è insomma la prima trasmissione che facciamo insieme. E l'idea era proprio quella di raccontare le pratiche, le iniziative dal basso, soprattutto collettive, che possono in qualche modo cambiare il nostro modo di guardare al mondo e magari aiutarci a trovare il coraggio anche di cambiarlo. E quindi siamo partite a fine gennaio con questo format, 30 minuti, due interviste, una piccola pillola che inizialmente era una pillola dall'estero per raccontare iniziative di questo tipo all'estero, poi ci siamo mano a mano spostati sull'Italia anche per proprio esigenze dovute all'organizzazione di queste settimane e che poi è così che abbiamo conosciuto anche Cura Radio. Dicevi prima della radio che entra nelle case più malleabile, noi ovviamente abbiamo avuto qualche difficoltà perché dal 9 marzo, che è stato quando anche l'Emilia Romagna ha chiuso tutto, sono stati chiusi anche gli studi della radio, quindi tutti quanti ci siamo organizzati un po' da casa, con dei mezzi, diciamo, di fortuna. Su questo ti capiamo benissimo. Immagino, perché non siamo attrezzate per questo. Quindi, vabbè, le interviste al telefono, quelle si fanno, nessun problema. E poi anche io e Benedetta, visto che abitiamo ai lati opposti della città e non ci possiamo incontrare, non ci vediamo appunto dai primi di marzo, registriamo al telefono la nostra parte di conduzione della trasmissione, quindi ci facciamo questa telefonata. All'inizio era proprio una cosa, abbiamo raccontato proprio di questa difficoltà, quindi ci sentiamo un po' come fate voi, no? Che vi chiedete come state, quindi ci salutiamo, vediamo come va e poi iniziamo a raccontare il tema della trasmissione, ecco. Senti, ti posso chiedere qual è che è stata la tua impressione proprio sulla funzione sociale della radio? Tra l'altro sappiamo che Bologna ha una tradizione bellissima, molto storica quasi, no? Per quanto riguarda le radio dei movimenti, le radio collettive, insomma, a partire da Radio Alice, insomma, direi che la tradizione è forte. Ma in questo periodo qua, che sensazione hai avuto da questo punto di vista? Io ho avuto la sensazione che, come al solito, la radio è dura a morire, perché nel corso degli anni io ho iniziato a fare radio all'inizio degli anni 2000 proprio qui a Bologna, in una discendente, diciamo, di Radio Alice, che era Radio Città 103. E già allora si diceva, no, la radio, le difficoltà, ma chissà se ce la fanno a stare in piedi. Però la radio alla fine entra nelle case e in questo momento in cui siamo tutti in casa forse è più facile, no, che sia la radio il mezzo da cui ci informiamo. Ovviamente se ci sono, che ne so, radio locali oppure anche nazionali che fanno informazione su quello che sta capitando, che non magari dal quotidiano, non lo so, noi non abbiamo un'edicola vicina, facciamo un po' fatica a recuperare dei giornali, ad esempio, quindi non lo so, magari la radio invece è più diretta, entra proprio nella casa, poi la puoi ascoltare facendo altro e devo dire che questa sensazione, no, del fatto che la radio sta avendo un momento di così, successo mi sembra una parola esagerata, però insomma sta funzionando di nuovo in questo periodo, è che ne stanno nascendo tante in quel pezzettino, quella pillola che abbiamo ascoltato. All'inizio parlavamo di Radio Quarantenna, che è un'altra radio delle vostre parti, di Bolzano, poi ci siete voi, sono nate radio anche nei centri sociali, io so che abbiamo parlato di trasmissione di Radio Virus che è nata a Milano, a Macao. Si vede che le persone sentono che è un modo proprio per entrare in contatto, entrare in relazione con gli altri, ed è quello che ci manca adesso. Ci manca tanto, perché sì, Siamo tutti chiusi, ognuno nelle nostre case. Sì, tra l'altro non è un caso che la radio sia stata sempre anche uno strumento utilizzato in tempi di emergenza, no? Perché ha questa capacità di essere ascoltata ovunque, anche nelle case. Checchino Antonini, tu ami molto la radio, io lo so, ti piace, ma vorrei così farti intervenire su il tuo progetto attuale, che è popoffquotidiano.it. Checchino, ci sei? Ci sono, ciao a tutti, sono affascinato da tutte le cose che sto ascoltando, tutti i ragionamenti molto interessanti. In questo momento anche Popoff Quotidiano, che esiste da 8 anni, si è trovato a confrontarsi con una saturazione che si sta verificando e si è verificata di notizie sul Covid, intorno al Covid, a proposito del Covid, eccetera. È una colonizzazione anche dell'immaginario che in qualche modo si sta realizzando. Nessuno di noi aveva vissuto una situazione del genere in una dimensione del genere, quindi in qualche modo siamo in una fase che è eccezionale e che, al netto del rischio, del dolore, del suo lato tragico, comunque ci stimola moltissimo. Perché anche essendo un momento di crisi, di crisi economica, di fortissima crisi economica, anche lì inedita, noi per ora non ne conosciamo ancora la portata, ci sono varie stime che si stanno succedendo in questi giorni, perché comunque l'infodemia o la panmedia si verifica sia sulle notizie legate al virus, e quindi è giusto, sono stato particolarmente d'accordo con il collega e amico che ha intervenuto dicendo la scienza non è neutrale, e non lo è stata mai la scienza neutrale, probabilmente non è neanche giusto che la scienza sia neutrale. Noi dobbiamo semplicemente capire che esistono meccanismi, quelli che possiamo affibbiare a Big Pharma, cioè a tutti gli interessi che si muovono intorno all'industria del farmaco e della sanità, e anche dei meccanismi di riproduzione dell'accademia, per cui chi parla a nome di chi, e il combinato, il cocktail di questi due elementi ci sta dando appunto uno spaccato non esattamente illuminante, non esattamente edificante, di quello che può combinare una scienza che non è neutrale ma fa finta di esserlo e che raramente riflette su se stessa. Per esempio, dimmi. continuando sempre un po' il ragionamento che si faceva anche con Laura sulla dimensione collettiva, no? Su quello che sono stati i bisogni di questo periodo, anche la ricerca di nuovi confini, no? Delle nostre comunità più o meno trasversali. Volevo chiederti della rubrica di Popov che si chiama Che ne sarà del noi, perché tutti ci stiamo un po' interrogando su questo noi nelle varie declinazioni. Esatto, quindi noi di fronte a questa infodemia abbiamo pensato che probabilmente il nostro ruolo era quello di dedicarsi a come invece l'infodemia colpisce un aspetto particolare, cioè la riscrittura dei rapporti di forza. In ogni crisi c'è una riscrittura di rapporti di forza, e in questo momento l'infodemia sta agendo anche su quel livello. Quindi, a differenza, dunque, al netto di tutte le considerazioni che sono state fatte in questo momento da tutti i portatori di esperienze, colleghi che ho sentito fino adesso, io penso che invece dobbiamo riflettere sul fatto che in questo momento si stanno creando delle comunità fittizie, si stanno creando delle bolle, perché la nostra relazione fatica più di altri momenti a contaminarsi, nel senso che noi, aprendo radio, aprendo siti, aprendo un sacco di esperienze comunicative in questo momento, tutte belle e affascinanti e soprattutto interessanti, ecco, non così, però dovremmo anche renderci conto che tutto questo rischia di chiuderci in una bolla, perché fondamentalmente quello che ci viene precluso è la contaminazione dello spazio concreto, materiale. E per questo Popov, che è una delle esperienze, è una di quelle bolle, quindi non siamo, noi siamo esattamente come Radio Quarantena, come Radio Noi, come, insomma, siamo uno degli come esperimenti Cura Radio. Che stanno accadendo in questa fase. Noi abbiamo pensato di fare questa serie di articoli multidisciplinari su che cosa ne sarà del noi, e di sprovincializzarci un attimo, cioè il tentativo di andare a pescare anche nelle esperienze che ci sembrano più interessanti all'estero, e cito una per tutte, ma non è l'unica, il quotidiano francese Mediapart, che è un quotidiano di inchiesta molto, molto fatto bene in Francia, e che consiglio a tutti quanti di consultare. E quindi noi stiamo cercando di ragionare che cosa ne sarà del nostro stare insieme, del nostro organizzare il conflitto sociale, nel nostro cercare di riflettere, perché c'è una grande opportunità, c'è una grande opportunità, perché finalmente questa epidemia squarcia il velo di Maya e rende molto difficile le narrazioni che ci hanno reso tossica la vita in questi tre decenni. E a proposito di opportunità, scusa se ti interrompo, Checchino, però mi hai dato l'assist per invitare anche Riccardo Troisi di Comune Info, che è qua con noi proprio perché Comune Info, anche lui, anche questa piattaforma di giornalismo collettivo, di contributi che sappiamo che da tanti anni ci accompagnano, dei movimenti, delle organizzazioni dal basso, e ha cercato di valorizzare le opportunità che questo momento difficile poteva offrire, offrendo una serie di soluzioni, enfatizzando la parte buona, no, delle soluzioni sociali che venivano messe in campo. Parlo per esempio di condomini virali. Riccardo, ciao, benvenuto anche a te. Intanto grazie. Per noi in qualche modo, ve lo dico, è stato facile non seguire la necrologia della contabilità, insomma noi siamo stati dietro il virus in altro modo, è evidente, non ci stiamo su questo tema, ma insomma, siccome Comune Info parla delle persone comuni, delle comunità, racconta quelli che da sempre resistono, non solo a questa pandemia, ogni giorno, e che però provano a ribellarsi facendo, cioè provano a reagire a quello che sta avvenendo, anche se è catastrofico, noi abbiamo automaticamente iniziato a raccontare quello che arrivava dalle comunità con cui siamo in relazione, dalle reti, movimenti, dalle famiglie, ma anche dalle singole persone Condomini Virale nasce da una nostra lettrice che ha preso un cartello, ha posto un cartello sul suo portone dicendo: chi del mio condominio ha bisogno di fare la spesa, mi metto a servizio e la faccio per voi, per gli anziani e così via. No, ce l'ha mandata questa foto per dire un micro esempio di mutualismo in un condominio che invece è diventato virale. Perché da questa cosa abbiamo raccontato tantissime reazioni di gente che non è stata chiusa solo a casa, anche se è chiaro che la condizione di chiusura e di pressione è stata e è pesante, però c'è gente che ha provato a reagire in qualche modo, no? E ha reagito costruendo azioni di mutualismo. Condomini Virali è stato un esempio dove abbiamo iniziato a farci arrivare notizie dei gruppi di acquisto che si mettevano insieme e accoglievano altre famiglie per provare a aiutare dei piccoli produttori locali, nonostante che perché avevano chiuso per esempio i mercati locali. Comune Info in Condomini Virali ha raccontato come una serie di persone si mettevano insieme e provavano a fare online i compiti a bambini che erano in difficoltà. E così tanti racconti di mutuo aiuto che abbiamo visto e che hanno attraversato Comune. E non solo, un altro mondo che ha reagito secondo me in maniera interessante è il mondo della scuola, dell'educazione, che non è dei bambini, perché sì, è vero, non è stato raccontato e sono una delle parti che ha sofferto e continuerà a soffrire molto in questo sistema, però per esempio ci siamo inventati una rubrica che si chiama Rompere le distanze, proprio per far sì che racconti sull'educazione, su un altro modello di formazione che non era solo quello che il mainstream in quel momento stava dando, cioè l'online, lo streaming, no? Ma poteva essere una forma di racconto comune e così via. Abbiamo provato a tirarlo fuori. Questo che significa? Significa che noi dobbiamo fare un maledetto lavoro difficile ma affascinante di continuare a ricercare, investigare, a raccontare e a farci raccontare come la comunità continua a reagire, perché quello che abbiamo visto in giro è che c'è un bisogno esasperato di non stare e non accettare tutto questo in maniera passiva. Poi è vero, e come dice Checchino condivido, il grande problema, e ci dobbiamo preparare, sarà la crisi economica, cioè sarà la nuova pandemia che ci metteranno, il nuovo virus che ci metteranno ogni giorno anche lì sulla contabilità di altri numeri e che ci restringerà anche qui tutta una serie di libertà e a cui dovremmo reagire. E per cui il nostro spazio servirà e gli altri spazi di comunicazione dovranno farsi forza e servire a dare voce a quelle comunità invisibili, a quelle storie piccole che però reagiscono a questo sistema e attraverso quella reazione provano a raccontare dei cambiamenti profondi, sociali, di cui questa società ha terribilmente bisogno. Ecco. Quindi direi prove di trasmissione di solidarietà, informazione anche dal basso, credo che ce ne sia stato molto bisogno in questo periodo. Tutti noi siamo stati un po' trascinati in questa corrente che ci ha portato a voler comunicare in questo periodo così complicato, anche per raccontare la solidarietà che poi esiste, c'è, si è organizzata tra mille difficoltà, come ci raccontavi tu adesso. Io, Francesca, se tu sei d'accordo, visto che siamo più o meno in chiusura della nostra trasmissione, farei un giro veloce tra gli ospiti che sono rimasti con noi per così dare un giudizio molto breve su come secondo loro i media, diciamo così mainstream, ma non solo, hanno affrontato la questione coronavirus in questo periodo. Simone Casalini è andato, ce l'aveva già anticipato perché non poteva stare di più. Ettore Paris anche, mi sembra. Ettore, ci sei ancora? No? Allora a questo punto... No, Ettore ci ha appena salutato. Allora io partirei a questo punto con un giro con Laura. Laura, hai voglia di dirci quello che pensi? Così, darci così una chiave di lettura. Eccomi. Vai. Ma Io mi ricollego, cercherò di essere breve, ma mi ricollego un po' anche a quello di cui parlavate all'inizio, quindi la questione proprio dell'infodemia, no? Di questo surplus di informazioni da cui siamo stati sommersi in questo periodo. Ammetto di essermi lasciata prendere e sommergere anch'io all'inizio, perché ovviamente cercavamo di capire cosa stava succedendo, quindi leggevo tutto, aspettavo i numeri della sera, mi veniva l'angoscia, eccetera, eccetera. Io devo dire che non ho la TV, quindi quella parte la escludo, però mi informo sui giornali, soprattutto online, di carta quando riesco ad andare all'edicola, ai siti di informazione, ai social. Quello che posso dire è che l'informazione di questo periodo dei media mainstream mi ha fatto ancora di più pensare che la via sia un altro tipo di giornalismo. Noi ne avevamo parlato nella prima puntata di Antidoti, lo slow journalism, il giornalismo lento, quindi l'informazione approfondita, verificata, non urlata. Soprattutto una cosa che a me ha dato molto fastidio in questo periodo, normalmente mi dà fastidio, ma in questo periodo ancora di più, visto che stiamo parlando della salute di tutti, sono i titoli. Io sono una giornalista, mi occupo di sociale e a volte veramente leggi i titoli che sono fatti solo, no, per prendere i click, per attirare qualcuno e che insomma contribuiscono in qualche modo anche a diffondere delle informazioni che non sono giuste, non sono verificate, non sono corrette. Quindi quello che dico io è che servirebbero meno notizie, più approfondite. Io ho seguito soprattutto i siti come Valigia Blu, Slow News e Il Sole 24 Ore, perché devo dire che, visto che molto spesso si parlava di statistiche, di numeri, bisogna anche saperne scrivere. Certo. Quindi rallentiamo, insomma. Anche se mi è venuto in mente che la redazione del Sole a un certo punto è andata anche in sciopero, no? Proprio perché sì, no, certo, però è stata una lettura di cui non era d'accordo, no? Cioè, quindi certo, è stata molto forte questo aspetto che ci stai raccontando te, Laura. Certo, ecco questo. Io questa è la mia idea. Rallentiamo, insomma. Che tra l'altro è un sito che ha affrontato tanto la dimensione, nella dimensione soprattutto della relazione fra democrazia e informazione, anche il ruolo dell'informazione rispetto a quello che ci stava succedendo intorno, perché ricordiamo l'allarme continuo, no, della perdita dei diritti costituzionali che c'è stata. E su questo magari chiederei a Checchin una riflessione, che ricordiamo aver scritto molti libri che parlano spesso di questo, no? Ricordo forse il tuo ultimo è quello dell'anno scorso, no? Sbirri, 170 anni di storia, e per More Nocturne Books, però insomma tanti sono i libri che te hai scritto che riflettono, no, proprio sulla condizione della libertà nel nostro paese. Sì, diciamo, in realtà il libro è opera di Marco Sommariva, io ho scritto l'introduzione, ma la scelta di quelle 147 citazioni di romanzi, dove appunto si nota il fatto che gli scrittori sostanzialmente non amano la polizia e hanno parecchie pezze d'appoggio su questa cosa. Noi abbiamo visto che il settore pubblico, i lavoratori del pubblico hanno dimostrato di essere l'ossatura della resistenza al virus, i lavoratori della sanità, degli insegnanti, come ha detto Riccardo, come avete sottolineato, abbiamo sottolineato in questo dibattito. Diciamo, chi ci fa la figura peggiore sono sicuramente gli apparati di ordine pubblico, perché probabilmente esiste anche un tentativo, un laboratorio, una sperimentazione di mettere ordine, di limitare ulteriormente il conflitto sociale, che in questo paese già da alcuni decenni è attaccato. I decreti di Minniti, Orlando, i due decreti di Salvini sono, o il decreto Lupi del 2014, sono un tentativo esattamente di impedire che alcune forme di conflitto sociale possano essere contagiose, quindi di trasformarle in un problema di ordine pubblico, esattamente come si è trasformato in un problema di ordine pubblico un atteggiamento assolutamente sano come quello dei runner, mentre invece è stato da parte della stampa mainstream dato molto fiato a tutte le voci diciamo di un capitalismo predatorio, di un neoliberismo predatorio, che invece insistevano per sacrificare la sicurezza in nome delle loro esigenze di profitto e di competizione. Questo è il dato vero. Anche le fake news, mi ha colpito particolarmente una pubblicità di Mediaset, anzi due pubblicità di Mediaset, che messe insieme secondo me danno una sintesi di quello che il giornalismo mainstream è riuscito a fare in questa fase. Da un lato gli editori che dicono state attenti alle fake news, da un altro lato gli stessi editori che fanno riferimento ai partiti, ai gruppi di potere che hanno animato i governi degli ultimi vent'anni, cioè degli anni in cui è stato smantellato il welfare, è stata costruita la trappola del debito, è stato definanziato e privatizzato ogni aspetto dei nostri beni comuni, che adesso chiedono a noi cittadini di partecipare a delle collette, a delle operazioni di solidarietà, di raccolta fondi per i nostri eroi, infermieri, medici, eccetera, che sono in prima linea. Quindi chi ha distrutto quel sistema sanitario, chi l'ha sbilanciato sul privato e sulle esigenze di profitto del privato, adesso chiede a noi di partecipare a questa grossa operazione di compassionismo caritatevole, che è assolutamente insidiosa, perché il tipo di società che si va costruendo ha bisogno di solidarietà, ma ha bisogno di una solidarietà conflittuale, di un mutualismo conflittuale, perché altrimenti, anziché ricucire quello che il liberismo divide, si mettono soltanto diciamo delle toppe, si mette soltanto olio anziché granelli di sabbia dentro un modello di sviluppo che invece è totalmente da riscrivere, e oggi finalmente questo velo di Maio appunto è in qualche modo stato strappato, insomma. Quindi credo che il ruolo del mainstream in questa fase sarà un ruolo estremamente insidioso, proprio perché parteciperà a questa riscrittura dei rapporti di forza. Altro per citare il Sole 24 Ore, l'editore del Sole 24 Ore è Confindustria, e Confindustria ha appena chiesto la deroga da tutti i contratti nazionali di lavoro. Quindi il problema del giornalismo dal basso è anche quello di partecipare non solo alla costruzione di comunità, ma anche alla loro connessione e anche all'elaborazione di una piattaforma praticabile, fattibile, che faccia entrare in comunità tutte le comunità, perché altrimenti ciascuno si costruisce la sua e rischiamo di partecipare anche noi a un gioco della disgregazione, certamente con delle finalità diverse, eccetera, però rischiamo, se non afferriamo l'opportunità di costruire nuove connessioni, un ordine, come dire, una relazione superiore, un coordinamento di questa roba qui, rischiamo di partecipare a un gioco di scomposizione. Ecco, mi viene in mente l'esperienza, così, una delle tante dal punto di vista radiofonico, di Radio Gap nel 2001 a Genova, no? Mettersi insieme e uscire dalle bolle, ma anche essere presenti sul territorio. Riccardo, io concluderei con te. Come hai vissuto, sì, tu? Abbiamo parlato dell'esperienza di Comune Info, e quindi dell'informazione che fate voi, molto diversa da quella dei media mainstream, ma come hai vissuto tu l'informazione, quella quotidiana, in questo periodo? Come è entrata in casa tua, come l'hai affrontata? Guarda, noi sinceramente ci siamo accorti subito che questa cosa era un piatto ricco per le informazioni mainstream. Cioè, guardate, due cose avevamo notato subito: Repubblica e altri hanno iniziato a dare gratuitamente o a un euro gli abbonamenti online per 4 mesi. Cioè, avevano capito subito che su questa roba costruivano l'attenzione mediatica, perché insomma, un po' come dice sempre anche Biagi, cioè il bene non fa storia, il male fa dei titoli eccezionali, e questo è stato, no? E non c'è... E l'immagine che mi rimane è lo spot di Cairo, no? Avete forse visto, no? Di La Sette, non so se ci avete presente, no? Che a un certo punto in un intervento video dice: ragazzi, insomma, qui stanno aumentando, la rete va molto bene, stanno entrando, la comunicazione sta andando molto bene, facciamo grandissimi ascolti ai nostri, diciamo, partner economici, cioè per esempio la grande distribuzione, da questa crisi ne sta uscendo con dei profitti, diciamo, a doppie cifre, alimentano, no, questo modello, questo sistema. Per cui, come dire, il mainstreaming tradizionale ci ha fatto veramente, insomma, ci ha in qualche modo guadagnato in una maniera esagerata. Però è evidente ed è vero che tutte le realtà che hanno costruito una comunicazione hanno avuto molta attenzione, cioè noi abbiamo perlomeno raddoppiato, se non triplicato, il lavoro e i contatti e l'attenzione sulla nostra comunicazione, che non è appunto quella mainstreaming. Per cui c'è stata e c'è una ricerca di trovare non solo, insomma, l'informazione contabile, ma anche quella che provava a ragionare, a approfondire, a mettere insieme, a costruire dei canali di connessione. E mi ritrovo un po' quello che diceva Chino, secondo me, cioè noi nel raccontare le comunità non dobbiamo, diciamo, né raccontare la solidarietà della pacca sulle spalle, perché questa proprio, cioè, ci rinchiudono in quella dimensione, e anche ci rinchiudono nella comunità, cioè nel senso che uno si autocompiace della propria comunità, del proprio gruppo, del proprio tentativo di reagire a questo sistema, però in qualche modo lì rimane fermo, cioè non fa lo sforzo di mettersi in relazione, di creare legami che vanno al di là della propria comunità. E questo, secondo me, è un po' anche il percorso che dobbiamo narrare, cui dobbiamo indagare, e anche voi, tutti noi, devono fare questo sforzo nel cercare di creare relazioni per una trasformazione reale che ci fa uscire da questa situazione, perché secondo me, diciamo, nella fase 2 ci possiamo rimanere molti anni, diciamo così. Per cui sì, credo che dobbiamo... una fase 2 che chissà che forme, che dimensioni prenderà. No, se c'è una cosa che probabilmente possiamo dirci è che comunque in questo periodo qua, che è stato un periodo a tratti surreale, comunque ci siamo fatti delle domande forti, ci siamo posti degli obiettivi forse più chiari, e forse questa cosa che stavi raccontando a te, Riccardo, questo bisogno di un altro tipo di informazione, un altro tipo di solidarietà, di rompere gli schemi, di rompere dei muri immaginari, ne è un tratto distintivo. Allora, Mattia, io direi che abbiamo superato il muro dell'ultramuro del suono, perché sono le 20:18, quindi visto che è vero che Radio Cura da questa settimana ha deciso di limitare la propria cadenza una volta in settimana, quindi insomma abbiamo deciso anche di essere un pochino più larghi, però sicuramente dobbiamo cominciare a chiudere questa bellissima trasmissione, che avrebbe avuto bisogno di più spazio, perché è quantomai interessante, ma ci torneremo. Prima dei saluti io vorrei ricordare la raccolta fondi che sta continuando per sostenere questo Trentino. La trovate anche sul sito di questotrentino.it, perché questo Trentino è un mensile che ci accompagna da tanti anni, una delle voci critiche più lucide del nostro territorio. Insomma, siamo anche noi, no Mattia, ci abbiamo scritto e ne siamo molto onorati. Ettore è veramente una voce, insomma, che insegna, che continua a insegnare, che continua a fare le domande giuste. Io direi di salutare le nostre ospiti, i nostri ospiti. Ciao a Laura, a Riccardo e a Checchino, che sono gli ultimi tre che sono rimasti di questa lunga carrellata che è partita con Simone Casalini, con Ettore Paris e con ilmulo.it, insomma, Daniele con il locale. Erler. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. E grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro a tutti. E a questo punto sigla. Francesca? E a questo punto sigla, e allora rimandiamo il nostro appuntamento a mercoledì prossimo, e con nuove avventure, con nuove riflessioni, e poi cominceremo a raccontare anche quali sono le nuove, il nuovo futuro di Cultura, di Radio Cura, insomma quello che avremo deciso di fare di questo bellissimo spazio collettivo che ha cominciato a camminare in maniera sempre più autonoma. Cura Radio fase 2. Dunque, a settimana prossima, mercoledì. Ciao Francesca. Ciao a tutti, ciao Mattia.